una donna così, donna come sei tu, ha bisogno di un uomo per sé e per noi un avvenire non c'è. Una donna così deve stare con chi ogni sera l'aspetti e sia là, perché un'ora d'amore non è quello che vuoi e tu meriti di più di quel che hai. Pensa, pensa alla tua vita, anche se fra noi la storia è finita. Pensa che sei ancora bella, per me sei sempre quella. E domani mi mancherai, e io dove sarò? Prepotenza del cuore che si vendica un po'. Che tortura capire che dovrò fare a meno di te e riempire quel tempo, non so bene di che. E domani mi mancherai, ed è giusto così. Donna così deve avere di più, risvegliarsi sicura con chi condivida oltre il letto le piccole realtà e ti dia stabilità come vuoi tu. Pensa, pensa alla tua vita e recupera i giorni, le notti di attesa. Solo io non so vederti restare qui a logorarti, e domani mi mancherai, e io dove sarò? Prepotenza del cuore che si vendica un po', e vorrei riprovare a fare l'amore con te. Forse è meglio lasciare ogni cosa com'è. E domani mi mancherà, e io dove sarò? E pensare che avevo una donna così, una donna così, una donna così.